avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Dato per scontato che il problema, il dilemma comunemente condiviso delle necessarie ristrettezze e del immancabile dimagrimento è all'ordine del giorno, oggi faremo l'apologia delle persone grasse. Dico, faccio subito una premessa, so esattamente che dietro molte persone sovrappeso esistano dei problemi anche di tipo clinico e non voglio qui fare l'apologia dell'obeso o della grassona, assolutamente, però voglio segnalare un fenomeno secondo me molto interessante, che è un momento molto particolare in cui si dà fondo a tutte le risorse individuali, familiari, che oggettivamente ci possono permettere di passare oltre un immancabile e percepibile guado pericoloso. Esiste una sorta di conforto psicologico, una sorta di rassicurazione generale e una sorta di sguardo anche l'invidia nei confronti delle persone sovrappeso. Si ha come l'impressione che loro possano avere una riserva di felicità, di autonomia, possibilità di andare oltre piuttosto noi che abbiamo sempre tirato la cinghia per motivi estetici, per nevrosi. In questi giorni l'onore delle cronache il libro scritto da una ballerina della Scala che racconta scenari turpi e oscuri, ballerine che per avere il primato di prestanza fisica e quindi di magrezza fanno delle gare a chi mangi meno, una sorta di tortura, di camera di deprivazione, il cui fine è una bellezza allucinata. Il culto della magrezza, il culto della donna scheletrica ha fatto discutere negli ultimi anni tantissimo questi modelli estetici ispirati a immagini mortuarie che in realtà sono della sorta di stampelle umanoidi ossute per indossare abiti di grande firma e di grande pregio, che fanno sognare a casa le enormo dotate ragazze e ragazzine che pensano che soltanto in quel modello di scheletro ambulante si realizza la loro felicità. E qual è il côté opposto di tutto questo? Sono le ragazze grassottelle, sono le signore cicciottelle, sono le matrone abbondanti, sono le donne che si portano addosso il tripudio della carne. Parlo soprattutto di donne, ma naturalmente la trasmissione è aperta anche agli uomini, perché attorno appunto alle donne sovrappeso ci sono alcuni fenomeni che vale la pena di sottolineare. In un momento in cui sembra che l'astinenza e la sobrietà siano la cifra che deve incarnare qualsiasi essere umano, cittadino del nostro paese, è il momento del tripudio, della riscossa e della rivincita ideologica e spirituale delle grassone. Tatiana è l'amica mia quella grassa, talmente grassa che se si mette a giocare con l'Ulla Hop, la gente fa guarda come si vede bene stasera Saturno. Pensate che adesso ha dovuto fare una dieta, è triste, il dietologo l'ha messa a dieta, non può mangiare niente, però ha buttato giù 70 kg, ha piatto il dietologo e ha buttato dalla finestra. Tatiana è l'amica di quella grassa, talmente grassa, che quando va a scuola è amica di banco di tutti. Oh, bravo! Non mi piace. Senti, ammazza, oh, m'hanno fotocopiata. Barbara Dardanelli, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Quanti pesi? Quanti chili pesi? Peso 87 kg. Sei una cicciona? Sono una cicciona, ebbene sì, e me ne vanto. Ma perché Barbara Dardanelli hai riempito, cosparso, spalmato ovunque nella rete con peso il mio profilo Facebook, foto di te totalmente ignuda, come mamma t'ha fatto? Allora, perché insieme a Nicole, che è una bravissima fotografa di Pistoia, abbiamo deciso di mettere su questo progetto che si chiama Grasse, appunto, e abbiamo deciso di fotografare ragazze grasse nella loro nudità e anche non solo, insomma, nella loro nudità, per dimostrare che può nascere un nuovo manifesto estetico dove appunto cellulite, rossolini e tutto quello che si porta dietro la ciccia diventa bello. Allora, descrivo alcune delle immagini perché la radio non è eloquente e non permette di vedere se non si racconta. L'una delle immagini c'è Barbara Dardanelli, ragazza simpatica che conosco da anni per il suo lavoro di ufficio stampa, di vari artisti, musicisti, via dicendo, che esce completamente ignuda, grassissima, enorme, c'ha un culone, c'ha 3 metri di raggio, tettone gigantesche, da uno scatolone. Un'altra c'è Barbara Dardanelli di spalle, con il suo culone gigantesco, con un tatuaggio tribale sopra, che si copre vezzosamente le spalle con un ombrellino. E poi tante altre foto di tante altre signore, una signora ancora più grande di Barbara, il doppio di Barbara quasi, divertente, con una torta che si mangia la torta, si ingozza di panna, tutta sporca di panna. Un'altra bellissima, sembra quasi una butterfly che però peserà 110 kg. Ecco, dove hai trovato tutte queste grassone, come hai lanciato il bando e qual è la crociata che vuoi questa mattina estendere a questa trasmissione? 800240024, chi pensa, io sono un mi astengo da ogni giudizio, però riferisco il dato perché mi sembra interessante. Chi vorrà mai partecipare alla rassegna di grassone nude di Barbara Dardanelli ha questa mattina occasione di mostrarsi. Ecco, quante sono finora quelle che hanno aderito? Allora, sono più di 100, Gianluca, ma stanno aumentando ogni giorno, perché ogni giorno mi arrivano mail di ragazze e signore che vogliono farsi fotografare. Il bando è stato messo su Facebook perché appunto volevamo prima di tutto sfruttare un social network che è di uso comune di tutti, e poi perché appunto volevamo trovare donne e ragazze comuni, perché esistono anche modelle taglie forti, ma noi volevamo fotografare la normalità, insomma. Diciamo la verità, Baba, qua non si tratta di taglie forti. Quando si parla di taglie forti e sui giornali di moda si mostra un servizio alle taglie forti, sono signore lievemente esatto, in carne. Qua si parla di ragazze che normalmente uno direbbe una cicciona. Io ti voglio bene, ti sono amico, quindi lo posso dire con tranquillità, certo. Capito? Però state dando a questo essere abbondanti, sovrappeso, fuori standard rispetto a ogni standard, un valore estetico. Qual è la chiave di tutto questo? Sono foto non ritoccate, non ripulite, non ammorbidite. Siete voi con tutta la vostra ciccia estesa, dirompente, esatto, prorompente. Ma senti, in realtà il messaggio è quello di voler ridare neutralità alla parola grassa, che era diventata, cioè era politically correct non usarla più, insomma, si usava donna formosa, cicciottella, e invece c'è, cioè, grassa è comunque un aggettivo normale, come può essere bionda, alta. Sono poi le persone che gli hanno dato un'accezione negativa, che poi, voglio dire, basta spostarsi, andare in Africa e acquista già un'altra accezione, perché se non sei grassa non ti prendano nemmeno come moglie. Per cui niente, il nostro scopo è stato un po' quello, abbiamo voluto lanciare una provocazione che non vuol dire fare battaglia contro le case di moda o contro l'anoressia, non è questo il nostro scopo assolutamente. Fermati un attimo, Francesco, sì. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei è un estimatore dell'articolo che stiamo questa mattina presentando? Sì, io anzi colgo l'occasione per ringraziare le ragazze che hanno partecipato a questo evento, perché è una cosa bellissima. Io sono sposato da un anno con una ragazza bellissima che ha qualche chilo di troppo, che è piena di complessi. Quanti chili di troppo? Non facciamo gli eufemismi. Questa mattina le cose vanno dette per quello, diciamo, che sono. Diciamo dai 10 in su, via. Cioè oltre il quintale? No, non esageriamo. Quanto pesa però, sua moglie? Credo sia sull'80 di chili. Vabbè, 80 kg, quanto è alta? Dipende, se è alta 1,10 m. Credo sia 1,65 m, una roba del. Vabbè, non è che sia poi tutta questa. Però per la cultura moderna è oggettivamente. Ma lei l'ha scelta per questa sua caratteristica? Allora, io l'ho scelta perché mi piaceva, perché era bella e perché è bellissimo vivere con una persona che ama mangiare, posso dirlo? È divertente farci l'amore, è particolarmente divertente farci l'amore, è divertente prepararsi un pranzo, perché c'è il divertimento del mangiare, non ci sono questi noiosissimi riti del oddio, no, non posso perché sono in dieta, non qui. Certo, bisogna fare anche una battaglia contro l'obesità, ma per la salute, non per un sì, fattore. Ecco, certo, tenerla anche un po' sott'occhio, perché sennò da qui a 10 anni non le esce più dalla porta la moglie. No, questo ovviamente siamo quando superiamo il limite ci regoliamo. Avete un regolatore interno. E facciamo tutto di coppia. Però lei ha detto una cosa molto interessante. Intanto continuo a pregare gli ascoltatori, soprattutto le ascoltatrici, questa è la mattina in cui potete liberarvi da tutti i pesi, dall'irrisione, dal dileggio, dalla vergogna che avete provato per essere sovrappeso. 800 24 00 24. L'ascoltatore Francesco ha sottolineato una sorta di sinestesia, di piacevolezze. La donna che ama mangiare, quindi ama i piaceri gastronomici, una donna particolarmente dotata anche degli aspetti amatori, più piacevole nel rapporto amoroso. Questo potrebbe essere un luogo comune, potrebbe essere semplicemente una proiezione onirica, potrebbe affondare le radici in qualche nostra fanciullezza e lucubrazione, ma è detto o non è detto che sia così? Cos'è che vuoi? Una nazionale. La posso aiutare, signorina? Ma sta buono che non gliela fai. Ma come non ce la faccio? Io posso alzare anche 80 kg. Una volta ho preso in braccio anche il mio babbo. Questo è da ridere. Ma perché no? Lei quanto pesa? Ma non lo so. Vuol vedere che alza anche lei? Ah, sì? Vediamo. Ah! Ah! Casca! Ciao! Vediamo, adesso basta. Ma sì, tesorino mio, vieni qui. Anche tu sei carino, sai? Fammi impazzire solo un po', solo un po'. Nulla come la fantomatica e storica scena della tabaccaia di Fellini. Calato il termine tabaccaia, tutte le piacevolezze sovrappeso, ricorda e dà l'idea di questa sensualità strarepante. E il giovane protagonista del film Marcord poi andrà a letto, sarà ammalato, avrà la febbre. Il travolgimento ormonale di questa immersione forzata e repentina nei seni enormi, sproporzionati e ciclopici della tabaccaia lo farà ammalare. Non era pronto a sostenere non tanto il peso di questa donna, ma ciò che conteneva di focosità carnale questa donna, che lui intuiva probabilmente nella sua ormonale e rabdomantica attenzione, però non sapeva contenere, non seppe contenere. Forse gli uomini non sono all'altezza delle donne sovrappeso. Questo lo chiediamo a una scrittrice che su questo tema ha molto ispirato e alimentato la sua vena letteraria. Caterina Cavina, buongiorno. Caterina Cavina è una scrittrice, ha scritto per Baldini e Castoldi, da lei editore, Le ciccione lo fanno meglio. Qual è la chiave del tuo libro? Allora, il mio libro parla di una ragazza che si chiama Alice, che è alta 1,85 e pesa 140 kg, quindi una grave obesa. Però è anche abbastanza alta, diciamo, è un donnone. Sei un donnone, anch'io sono un donnone. Sei tu alta, tu corrispondi a queste misure? No, io sono un po' meno, io sono alto 1,80 e peso 128 kg. Beh, siamo lì, più o meno siamo lì. Sì, siamo lì, sono piuttosto bella e mi paragonano spesso alla tabaccaia di Fellini. Quindi sei una gnoccona te, non sei una cicciona che disprezzano. Sì, sempre li apprezzo, come dire, gli stimatori uno li trova sempre. Quando è partito il trailer mi è venuto da ridere perché proprio mi paragonano quasi sempre a lei. Diciamo anche come zona geografica corrisponde. Sì, anche io sono della provincia di Bologna, quindi anche siamo lì. Io non sono ai confini con la Romagna, quindi anche l'accento. Tu sei una sorta di antropologa della sensualità o qualcosa del genere. Ho visto in internet una tua dottissima lucubrazione, vediamo se riusciamo a tenerci su un piano raccontabile in radio, sul rapporto antropologico legato al territorio, alcune situazioni di zone paludose, arcaiche della tua terra che conferirebbero alle donne bolognesi questa particolarissima qualità amatoria. Le donne maggiormente esperte nell'uso amoroso della bocca erano quelle che si salvavano da un numero incredibile di gravidanze che avrebbe portate alla morte in quelle terre disperate. Quelle che erano più brave a offrire al marito questo succedaneo amoroso erano quelle che si selezionarono, e quindi per questo oggi voi bolognesi siete ammantate a questa forse immeritata fama. Sì, ma secondo te, sì, ecco, perché dici che le donne grasse in realtà hanno questa sorta di chiave amorosa in più, che gli uomini che si fermano alle apparenze, che si fermano ai luoghi comuni, ai modelli conclamati e proclamati, non arriveranno mai a lambire? Allora, io innanzitutto credo che veramente il corpo più rotondo, e non mi riferisco ovviamente alla grave obesità, dia, che è comunque una malattia, questo lo sottolineo, dia comunque un corpo rotondo, formoso, dia comunque più gioia. Ma tu sei malata, hai qualche valore sballato, cioè sei considerata un soggetto clinicamente da tenere sott'occhio? Io non ho niente di sballato, io tutti per esempio, appena fatto gli esami li ho tutti perfetti, persino il colesterolo basso, ma io sono un caso a parte. Comunque, io credo che le donne comunque rotonde abbiano questa, hanno un corpo che secondo me proprio nel talamo piace di più. Poi da portare in giro non lo so, perché c'è anche una sorta di ipocrisia. Pochi uomini sono coraggiosi come Francesco, che magari se le sposano, perché la donna è ancora uno status symbol e deve essere, come dire, conforme a dei canoni per essere accettata, per dare valore all'uomo. Pronto, come diceva prima Barbara Dardanelli, in realtà questo è un condizionamento locale, data da alcune situazioni geografiche, sì, in altri paesi, sì, figuriamoci. In altri paesi è diverso, certo, si varia di paese in paese. E comunque io credo sì che una persona che è sovrappeso, ma che può anche avere anche altri difetti fisici, comunque una persona che non è considerata socialmente bella, debba fare un profondo lavoro su se stesso, cioè si debba conoscere molto bene, deve avere ben chiara la propria identità, anche per, come diceva bene prima lei, neutralizzare la parola grasso, cioè grasso è un aggettivo che deve essere aggiunto ad altri che fanno parte di te, della definizione di te stesso, cioè a 17 anni, 15 anni sei il grassone, la grassona che viene magari dileggiata. Alla mia età, io ne ho 39, sei tante altre cose, sei una scrittrice, sei una giornalista, sei una sorella, sei, non sì, so, ma come ci sei arrivata, Caterina? Come ci sei arrivata? Perché l'iter, non credo che l'iter sia facilissimo di una ragazza fuori facile, standard. Però è crescendo, vivendo, mettendomi alla prova e avendo coraggio di mettermi alla prova. Cioè facendo le cose che volevo fare senza avere paura o lottando contro le mie paure. Anche a volte, come fa Alice, la protagonista del libro, anche facendomi violenza, nel senso di provare veramente a andare con molte ragazze della metà sovrappeso, non vogliono assolutamente avere rapporti sessuali perché si vergognano del loro corpo e non si rendono conto invece di quanto può essere gradevole e di quanti uomini possono amarlo. Quindi c'è un autodeterrente nel concedersi, perché sì, si pensa di non essere all'altezza. Ci sia il limite che ci impone la società, che il limite che ci imponiamo noi stessi per proiezione. Allora, fermati un attimo, abbiamo un uomo, Jen, 800240024, noi stiamo facendo parlare delle ragazze sovrappeso che hanno fatto di loro essere sovrappeso una chiave di felicità per loro e per chi ha intenzione e coraggio dal punto di vista di superare le barriere del pregiudizio di conoscerle. Jen, buongiorno. Buongiorno, volevo appena segnalarle una forma un po' di sopraffazione verso le persone un po' sovrappeso, per la verità sia donne che uomini insieme. C'è nelle agenzie bancarie, credo che lei abbia presente, certo, che esiste un tornello all'ingresso con una porta che si apre, lei entra in una specie di cilindro. Sì, se uno si tiene soltanto un mezzo euro in tasca suona, quindi deve fare avanti e indietro, esatto, più volte. Però succede anche il fatto che ieri c'era una vistosa signora sui 45 anni, completamente vestita di nero, in una corporatura sicuramente massiccia, che si avvia all'uscita, entra dentro in questo tornello, immediatamente una voce registrata segnala è vietato uscire in due contemporaneamente. C'è stata un'ilarità nel pubblico, la signora è diventata rossa e è cominciata anche a piangere, poveretta. È una specie di sopraffazione che indigna un po'. Ha segnalato un episodio che non avrei mai sospettato. Perché c'è un sensore. No, conosco bene, figuriamoci. C'è un sensore nel pavimento della bussola. E il sensore non può avere sensibilità. Se vede una massa superiore a quella che mediamente... Potrebbe dire qualcosa di diverso. Sì, sì, però potrebbe dire, in effetti ci sarebbe un problema di equiparare la necessità di avere comunque un sistema di sicurezza efficiente e la capacità di poter offendere una persona. È una cosa da studiare, però l'episodio che mi hai raccontato è significativo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Donna equilibrata e immagino molto attenta al suo corpo. Il classico figurino. Beh, oddio, non sono un grissino, però ho quelle mie formine giuste che agli uomini piacciono molto. Diciamo una falsa magra come Monica Bellucci. Beh, oddio, proprio a Bellucci no, No? Fantastica. Tagliere attillato, décolleté molto donante, fazzoletti in tinta al taschino. È come se la vedessi, una donna in carriera. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, frascicone, ma come io stavo andando tanto bella regolare, te che fa, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è sta il semaforo, tu guida la cazzo le cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta pagottara. Ma di che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cagatore di macchina. Modera, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi andatene a broccole. Ma fallo finire che sennò t'addoppo. Ma stavo via, questo fu un cult degli anni 90 quando un film con Christian De Sica lanciò Nadia Rinaldi, un personaggio del sotto star system italiano, ebbe una sua certa notorietà anche per episodi di cronaca e poi non so, al momento non se ne sente parlare molto, ospite ogni tanto in qualche talk show, ma sdoganò il fatto che una ragazza molto in carne potesse essere anche piacevole, faccione, era una bellissima ragazza ma notevolmente soprapeso. E questo è l'argomento di oggi. Oggi siamo partiti da una sorta di particolarissimo concorso fotografico di bellezza, concorso protesta, lancio di un manifesto, Grasse, un'idea nata da Barbara Dardanelli, che è una cicciona, e Nicole Nesti, che è una fotografa di Pistoia, che hanno cominciato a dire: noi fotografiamo donne grasse nude, e da tutta Italia centinaia di donne si stanno facendo queste foto, e le foto stanno rimbalzando ovunque in rete, la rete è piena di foto in bianco e nero, di foto artistiche con donne strabordanti, mai viste tante donne nude così grasse nella rete. Una di loro è Morena Romani. Morena, buongiorno. Buongiorno. Anche tu ti sei fatta fotografare? Certo. Quale sei delle tante grassone che ormai vediamo ogni giorno nei nostri profili Facebook? Sono quella che sta mangiando il muffling. Ah, sì, perfetto. Con la panna tutta sulla bocca. Cosparsa di panna, quindi grassa, sì. E golosa. Certo. Ma c'è anche un'allusione, diciamo, a tutta questa, c'è una sorta di richiamo erotico molto esplicito, diciamo la verità. Beh, sicuramente quando hanno pensato al progetto con la panna con me, l'hanno fatto perché sono molto coccolosa, sono molto, rido sempre. Ecco, ma il fatto di avere anche la possibilità di esporti nuda, di esibirti nuda in un concorso fotografico, quindi in rete, quindi tutti ti possono guardare, avevi mai fatto i conti con questa possibilità? O eri di quelle che stanno nascoste, chiuse e, come molte ci hanno telefonato e hanno già detto, si vergognavano di farsi vedere perché temevano che il giudizio le avrebbe demolite? Allora, fino a 2 anni fa sì, ero una di quelle che aveva dei problemi a farsi vedere perché logicamente ci additano. Da 2 anni a questa parte no, perché io ho fatto anche il concorso che viene tenuto a Forcoli in provincia di Pisa, che è Miss Cicciona, e da lì mi è scattato un mondo bellissimo che dovrebbero provare tutte le persone in carne. Ecco, ma come si fa a fare questo switch, questo cambio totale, che improvvisamente ci si rende conto che esiste una vastissima area di amatori, di estimatori, di affascinati dalla grassitudine? Deve scattare qualcosa nel cervello. A me purtroppo mi è servito, tra virgolette, mi è servito avere un problema di salute che praticamente mi ha portato a vedere persone che mi hanno sbloccato. Sono andata dallo psichiatra perché avevo dei problemi, ho fatto un'ischemia cerebrale, ma non dovuta perché ero grossa, ma dovuta a altre cose, e mi ha visto lo psichiatra, mi fa: ma tu problemi non ne hai, tu devi solo esternare quello che hai. E allora gli ho detto: è impossibile, cioè tutti mi guardano perché sono grossa, Allora mi fa, ma tu devi chiedergli, ma guarda, la cosa bella è che io posso migliorare, perché comunque io posso dimagrire, ma è brutto da dire, ma l'ignoranza no. E quindi questo è stato sufficiente, ti ha cambiato sì, la vita. Sì. Sono contento. Sì. Sentiamo Elisa, un'ascoltatrice. Elisa, buongiorno. Sì, buongiorno. 22 anni. 22 anni, sì. Io praticamente sono una ragazza, sono sempre stata sovrappeso, infatti i miei anni scolastici sono... Dichiara con orgoglio le tue misure. Allora, io sono alta 1,56 m e peso attualmente 84 kg. Beh, robetta nei confronti di quelle che stanno parlando, eh. Sì, però insomma, non è che sto messa tanto bene. E mi sento costantemente osservata, anche se magari non è vero. Ho cominciato a diventare anche un po' paranoica, devo ammetterlo. E in più faccio anche qualche difficoltà con il mio fidanzato ad essere un po' più spigliata, perché mi sento ingabbiata, diciamo. Quindi sei reticente nella concessione dell'intimidazione? Esatto, e poi niente, praticamente io periodicamente faccio delle diete con parecchio successo, dopodiché mi innervosisco perché ho bisogno di cibo, mi piace mangiare e ritorno al punto di partenza tranquillamente, senza far troppa fatica. Cioè, ce l'ho proprio scritto nel destino, non riesco a sfuggirne. Ma comunque il ragazzo ce l'hai, quindi hai una storia d'amore, non è che sei una Cenerentola messa in un angolo per la sua grassezza. Oddio, no, per quello no, non ho mai avuto problemi, sono io un po' che mi sento ingabbiata da questa condizione, non riesco proprio ad accettarla, purtroppo. Barbara Dardanelli, la promotrice di questo Fat Pride, di questa sorta di giornata... Tu farai un Pride, farai un giorno dell'orgoglio delle grasse, mi sembra, qualcosa del genere. Sì, sì. Ma ecco, le parole di questa ragazza che ha chiamato, ci rivedi qualcosa dalla tua storia, del motivo per cui decisi di lanciare la crociata del grassone? Assolutamente, è un momento della vita in cui siamo passate tutte, purtroppo. Infatti ti dico, abbiamo molta difficoltà per esempio a reperire ragazze giovani, cioè quel range d'età dai 18 ai 22-23 anni. Perché appunto è il periodo dell'età di tutte dove si soffre di più questa cosa. Poi dopo nasce la consapevolezza, nascono anche le prime approvazioni anche del sesso maschile magari, e quindi poi viene sdoganata, insomma. Beh, tu sei sposata, hai figli, quindi non è che sei buttata in un angolo lì, hai una vita relazionale, affettiva, matrimoniale, materna, regolarissima, quindi non è che ti ha impedito di fare la tua vita il fatto di essere sovrappeso. No, assolutamente, anzi, cioè, ho avuto una vita anche molto intensa, diciamo così, per cui... Cioè, gli hai dato sotto, questo vuoi dire? Sì, assolutamente, mi sono divertita molto finché non ho trovato il mio attuale compagno, di cui sono innamoratissima. Quindi, diciamo, esiste una porzione di umanità maschile che è particolarmente attratta dalle forme abbondanti? Io penso che più che dalle forme, da quello che poi, essendo grasse, diventiamo... Alla fine siamo persone generose, non solo con la nostra carne, ma anche con tutto il resto, per cui questa generosità che è fisica poi diventa anche una forma più estesa, e questo attrae sia gli uomini che anche le donne. Sentiamo Patrizia. Patrizia. Pronto? Patrizia, eccomi. Sono qua, buongiorno. Sto ascoltando. Ecco, niente, io avevo solo telefonato perché... Ah, prima come hanno fatto le sue colleghe, con orgoglio declami le sue misure. Allora, le mie misure sono 1,63 e per 73 kg di peso. Vabbè, andiamo, se siete delle false grasse. Mica tanto, perché io poi sono una classica donna mediterranea, quindi con il fianco bello rotondo, le tettozze che ci stanno, insomma, non sono... Sono tonda, sono proprio tonda. Vabbè, rotonda. Però va bene così, a me io mi piaccio abbastanza così. Ma quello che volevo segnalare da donna, che a cui è accaduto di incontrare nella vita un'altra donna e di essersene innamorata, è di essermi innamorata di una donna grossa. Due grassone innamorate, perché è così confortevole poter offrire e prendere morbidezza, accoglienza, ecco quello. Eh sì, ma basta dimensionare gli oggetti di comune consumo per sopportare il peso di entrambe, poi non c'è nessun problema. Ecco, avrete un talamo robusto, solo questo vi auguro, perché sennò... Robusto, ma è proprio, guardi, è proprio quasi un piccolo... è bello poter toccare delle piegoline morbide, cioè essere protesta da questa, da questo insieme di piccole morbide. Io pensavo che ci fosse, cioè, la persona magra attratta dalla grassa o viceversa, ma in questo caso lei dice che c'è una sorta di tripudio comune di piegoline che si incrociano. Sì, le piegoline sono meravigliose quando si incrociano. Vabbè, oggi questa mattina è l'apologia della piegolina, poi vedremo quanto quello che per queste persone che hanno telefonato è motivo di ludibrio, di lussuria, di piacevolezza e di piacere, per altri invece è una croce. Basta una piegolina per rendere grigia una giornata, potrebbe essere felice. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Cici, ciccio, ciccio la cia cia. Cici, ciccio, ciccio la cia cia. Sei come la luna che splende quando è piena. Ho ho ho cicciona, tu mi piaci così. Lui farà un cia cia cia della cicciona di Edoardo Vianello, che ci riporta indietro in tempi così remoti non poter essere vivibili e vissuti dai più giovani dei nostri ascoltatori. Questa mattina sì, ci siamo allargati nel parlare dell'orgoglio ciccione, delle donne grasse, considerate diverse, considerate ai margini della appetibilità maschile, in realtà dimostrano che è tutt'altra cosa, che esiste, nonostante il disprezzo generale, il luogo comune che le vorrebbe marginate, una fetta notevole di popolazione maschile che le apprezzi, ma loro stesse si sentono in grado di fare una sorta di giornata dell'orgoglio ciccione. Si stanno intanto mostrando in nude su internet, ma veramente tanto, è veramente importante la loro presenza. Ogni giorno ci sono nuove foto, appaiono ovunque, sono una sorta di martellamento virale di tutti i profili Facebook italiani. Queste ciccione ridenti, sorridenti, scollacciate, sbracate, squatrasciate, messe nude ovunque, perché dimostrano, dice, noi siamo così, a noi ci piace essere così, e a molti ti piace che a noi piaccia essere così. Avevo sentito all'inizio della trasmissione Caterina Cavina, che è una scrittrice che ha dedicato alla grassitudine proprio una parte cospicua del suo lavoro letterario. Ha scritto un libro, Le ciccione lo fanno meglio, ricordo Baldini e Castoldi, da Lai Editore. Caterina, rispetto alle telefonate che hai sentito, soprattutto l'ultima signora cicciona innamorata di una cicciona, questo corrisponde un po' al tuo lavoro antropologico nel campo della affettuosità e disponibilità femminile legata alla massa corporea? Sì, è assolutamente vero. Io appunto in questa, come voi definite, insolita, come dire, massa di estimatori delle donne grasse, che insolita per voi, per chi ne parla per magari le prime volte, ho riscontrato questo amore per la morbidezza, questo amore per la generosità, per il darsi. Io farei un discorso un po' più profondo, dicendo che non è solo la piacevolezza di essere protetti da un corpo grande, non è solo il seno grande, il sedere grande, insomma tutto grande. Sì, perché c'è anche la panza, è inutile negarlo. Ma c'è qualcosa di più, di intimo, nel fatto che noi per arrivare a questa, tra virgolette, liberazione del nostro corpo, la ragazza di prima, di 23 anni, che diceva di avere problemi a mostrarsi nuda, io ho amiche grasse molto belle che però hanno problemi a farsi vedere proprio per il loro corpo. Quando tu arrivi a questa sorta di liberazione, che può avvenire in maniera, in vari modi, come ne parlavamo prima, fai un lavoro su te stessa, acquisti una consapevolezza di te stesso che ti rende molto migliore in tanti campi nella vita, ma soprattutto anche a letto, nel senso che nel talamo chi si conosce, chi ha indagato chi è, ha più confidenza, diciamo, anche ha più superficie a disposizione da condividere, c'è un'area più vasta di possibilità di offerta e ricezione nell'atto amoroso, forse probabilmente questo. Poi vorrei equilibrare questa trasmissione, perché molti mi hanno scritto e mi stanno dicendo: ma tu stai sdoganando quello che è un problema, a volte anche una patologia, quindi non puoi far passare l'idea che l'obesità sia un valore positivo. Quindi chiamo al telefono un'amica scienziata e specializzata in questo campo, che è Serena Nardo, medico nutrizionista. Serena, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Scusa se ti ho distolto dal tuo terreno di lavoro, ma mi serve una tua parola di conforto. Come vedi te questa sorta di orgoglio, che io ritengo legittimo, e tra le tante categorie protette, probabilmente quello delle donne ciccione che vogliono mostrarsi nude, ma non soltanto per non sentirsi diverse, ma per dire: noi abbiamo qualcosa in più, noi siamo delle fantastiche amatrici. Ecco, tu che ogni giorno ne vedi tante, fa parte, diciamo, del pubblico delle tue pazienti, qual è un punto di vista equilibrato nei confronti di questo fenomeno? Beh, certo, sicuramente l'atteggiamento delle tue ospiti forse è quello più divertente e divertito, e forse più sereno, perché loro non si beano della loro condizione, ma in realtà sottolineano la necessità di essere semplicemente accettate per quello che si è, e questo è comunque un punto ancora di più, anzi esaltano il fatto che loro hanno qualcosa in più rispetto alle donne normograssate, adesso non so qual è il termine. Poi che il problema sia sicuramente una patologia che abbia tutto un suo correlato di altre patologie è sicuramente noto e codificato. Il problema è che come patologia forse è quella più derisa, irrisa, perché altre malattie che hanno magari a che fare con la sfera delle abitudini di vita, però non hanno questo stesso poi correlato invece di derisione, di diciamo così, anche di frustrazione per il paziente obeso, che chiaramente non viene aiutato poi nella sua condizione. Mi viene in mente, Serena, nel periodo anche che una persona viene, si osserva, si guarda e si controlla, e comunque deve vivere, non è che può stare nascosta e seppellita e coperta da un chador tutto il tempo che si sta occupando di sé. Assolutamente, ma io guarda, ti posso dire che nella mia esperienza poi in realtà i pazienti che riescono a risolvere in maniera migliore la loro condizione patologica, perché appunto poi tu hai giustamente sottolineato, ma così anche le tue ospiti sicuramente lo sanno e lo ricordano, che è un discorso patologico, però quelli che riescono meglio a risolvere questa condizione sono quelli che hanno uno sguardo in fondo più sereno, cioè di accettazione, comunque dicono: sì, ho un problema, però comunque io devo continuare a vivere, devo comunque continuare in parte a godermi. Senta, non voglio Nicoletta carbonizzarmi, ma mi viene a pensare, la scrittrice che parla della lussuria femminile, è una teorica della lussuria, ha fatto percorsi antropologici sulla capacità aspiratoria delle bolognesi, però dice: a tutti i valori a posto, dice: io sono cicciona ma sto bene, che devo fare? Certo, ma quello è già un salto. Loro, anche le tue ospiti, hanno già fatto un passaggio che è fondamentale, quello appunto di in fondo distruggere quel muro ingombrante che non è il loro corpo, ma è l'imbarazzo, diciamo, di chi magari le guarda o comunque delle persone che sono a contatto con loro. Quindi questo è già un passo in avanti. Ti posso fare una domanda di tipo clinico? Sì, scusa, qui è la scienziata in te. Proprio, guarda, per necessità scientifica, non per morbosità, ma esiste un rapporto concreto fra la massa corporea e la sensualità, la capacità di provare o dare piacere? Beh, diciamo che le persone che hanno più massa grassa in generale spesso hanno dei livelli, per esempio, di testosterone più elevati, quindi un'aggressività magari maggiore per certi versi, che magari si traduce anche in termini, diciamo così, lussuriosi, in una propensione maggiore per esempio per l'attività sessuale. Quindi la scienziata mi conferma che grasso e lussuria sono dei rapporti compatibili. Sì, poi certo, poi ci sono insomma altre problematiche che chiaramente non in tutte le persone sovrappeso, però vanno poi considerate, che sono poi quelle patologiche che chiaramente sono però la sfera medica, insomma, quindi quelle non vanno mai dimenticate, certo. Caterina Cavina, sei confortata dal dato scientifico che ti ho portato rispetto a quello che hai teorizzato come antropologa? Sì, questo lo sapevo già, questi sono anche dei livelli di ormoni, di testosterone più alto nelle persone, nelle donne sovrappeso, quindi questo aumento della libido. Ma io ci tenevo a dire una cosa: io in questi anni sono anche dimagrita. Ho perso 28 kg in 3 anni da quando è uscito il libro, e io voglio dimagrire e arrivare, comunque uscire dalla grave obesità e diventare sovrappeso, insomma. Questo ci tenevo a dirlo come messaggio, ma non perché dimagrendo io mi aspetti di essere più bella, più accettata o diversa, perché io mi sento già bella, già piuttosto accettata. Tu dici basta meno, non occorre essere ma esagerata. Ma per un fatto di salute e anche perché sì, è piacevole comunque, in tra virgolette, migliorare se stessi. E un dietologo mi diceva proprio la stessa cosa che ha detto la dottoressa, cioè le persone che già in partenza si amano di più riescono a ottenere maggiori risultati, perché si trattano, si comportano, vivono già come se fossero magre. Quindi alla fine... Al dimagrimento troppe aspettative, che spesso lo rende poi fallimentare l'operazione, cioè quando si arriva a peso forma e si accorge che la nostra vita alla fine è cambiata lievemente, che forse i cambiamenti devono avvenire altrove, che c'è una sorta di delusione che riporta a ritornare obesi. Fermiamoci qua, non vorrei essere segato brutalmente anche oggi. Ringrazio Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti e dico che alla fine anche questa trasmissione ha avuto una sua importanza pedagogica. Le ciccione che capiscono che sono belle, piacevoli e apprezzate sono quelle che maggiormente poi saranno propense a modificare il loro aspetto fisico nei termini e nei margini che la salute lo impone. A domani. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.